L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e ben ritrovati per questa puntata nella quale parleremo di carta. Ne abbiamo detto molto in questi anni, questa volta per cambiare sono andata a visitare la cartiera dell'Adda a Calolzio Corte, provincia di Lecco, da oltre 250 anni di proprietà della famiglia Cima. È una delle cartiere che normalmente ogni anno aderisce a Riciclo Aperto, che è una manifestazione del Consorzio Comieco per il riciclo della carta, che fa sì che si aprano gli impianti alle scuole per mostrare ai ragazzi a cosa serve lo sforzo che fanno a casa per differenziare i rifiuti. Comunque, con Roberto Severini, che è responsabile vendite di CDA Servizi, di cui fa parte la cartiera dell'Adda, abbiamo cercato di tratteggiare durante questa visita come funziona la cartiera, come si alimenta, quali sono i grandi problemi. Siamo una cartiera, quindi necessitiamo di materie prime per produrre il prodotto finito, che nel nostro caso trattasi di cartone grigio, che viene utilizzato principalmente per tubi, detti anche anime di cartone, e sono quelle che, partendo dall'uso un po' meno nobile all'interno della carta igienica, per arrivare a un utilizzo industriale dove ci si avvolgono film plastici fino ad arrivare ai coils di metallo e varie applicazioni. Tra i vari clienti, un'applicazione magari un po' più nobile della carta igienica è quello del... Noi ad esempio come cartiera dell'Adda forniamo la Pringles, che è un po' un brand un po' famoso. Il tubo di cartone con all'interno le patatine è fatto con il nostro cartone. Poi ovviamente il cartone non è a contatto con alimenti, perché non potrebbe esserlo visto la materia prima di origine, però ha all'interno un foglio di alluminio. Quindi come funziona? Funziona praticamente che la raccolta del macero avviene da varie piattaforme che sono situate su tutto il territorio nazionale. Noi compriamo dal territorio nazionale e anche dall'estero, perché spesso le politiche portano a far sì che alcuni raccoglitori che ci sono in Italia di carta da macero poi esportano verso mercati come il Far East, Cina, India, Indonesia, e quindi questa carenza poi sul mercato nazionale deve essere compensata da acquisti anche al di fuori. Cioè, quindi nonostante sia magari originariamente italiana, di origine italiana, rientra come carta, come cartone, viene comunque trasformata all'estero. La raccolta in Italia avviene appunto tramite queste piattaforme che nel caso del Nord Italia si assesta un po' su quella che è una media europea, mentre poi va a sciamare verso il centro-sud Italia, dove la raccolta purtroppo, adesso io numeri precisi non me li ricordo, però era circa 170-180 kg pro capite, questa era un po' la media europea annua di riciclo, cioè ogni persona consuma in un anno più o meno una quota del genere in media. La cartaccia praticamente viene raccolta da queste piattaforme e poi viene selezionata, perché noi facciamo un po' la raccolta a casa, io anche, prendendo una bella scatola di cartone e poi dentro ci metto tutto ciò che ritengo sia idoneo, quindi carta, riviste, patinate, giornale, eccetera eccetera. Questo poi nell'industria, nella filiera cartaria, non è proprio così, perché solitamente ogni prodotto va a rifare se stesso. Quindi, togliendo per un attimo il discorso cellulosa, che è la fibra più nobile per fare la carta, che si usa per fare ad esempio questi fogli di carta qui, o quello dove lei sta scrivendo è una pasta legno, che è la parte più nobile, più ricca, che è quella che viene dall'albero. Ma nel caso del riciclo, noi siamo un po' quelli più in basso nella catena, cioè noi raccogliamo tutto, un po' il misto, perché ci sono cartiere che producono invece carta giornale, carta per riviste che è riciclata, eccetera, hanno bisogno di una selezione molto più accurata. Quindi loro fanno anche un processo che è chiamato di disinchiostrazione. Quindi io ricevo la carta stampata, la disinchiostro e l'impasto va a rifare di nuovo il giornale. Però solitamente il giornale viene fatto con gli scarti di carta da giornale. Le riviste vengono prodotte con una percentuale di carta che proviene comunque dalle riviste disinchiostrate, viene tolto l'inchiostro. Per quanto riguarda Il nostro caso specifico invece a noi va bene tutto. Ecco, quindi noi siamo quelli che raccolgono il porta a porta, perché mentre per fare queste materie prime un po' più ricche, quindi il giornale così, proviene dagli scarti industriali stessi, quindi è un filtro a monte, cioè io raccoglitore o piattaforma, vado a prendere questo materiale direttamente in tipografia, in cartotecnica, eccetera, mentre noi raccogliamo quello che arriva dai comuni, quindi dalla raccolta porta a porta. La raccolta porta a porta che è come la faccio io, come la farà lei, magari lo scatolone e dentro butto tutto, quindi non viene selezionato, anche perché la selezione costa. Questo qui viene dalla piattaforma lavorato, quindi viene comunque tolto qualcosa, perché all'interno delle riviste oggi c'è di tutto, profumo, il CD, qualsiasi cosa, la plastica, i giochi e quant'altro, che non fanno carta, quindi questa selezione grossolana viene fatta, dopodiché si formano queste balle di cartaccia e quindi niente, noi prendiamo queste balle, vengono aperte perché viene rimosso il filo che le tiene insieme, il filo di ferro, viene rimosso questo filo e vengono buttate all'interno di un pulper. Il pulper, immagini che è un frullatore gigantesco, quindi un frullatore ma a livello industriale, dove finisce acqua e queste balle, viene il tutto frullato e dopodiché segue tutta una parte di epurazione, raffinazione, eccetera, fino ad arrivare una fibra idonea a quello che è la produzione poi di cartone. Ecco, il processo è abbastanza semplice, noi poi diciamo l'obiettivo principale è quello di ricevere la materia prima il più selezionata possibile, ovviamente per ridurre quelli che sono poi gli scarti. Purtroppo gli scarti per una cartiera sono un costo molto importante, non come quello della materia prima, ma viaggia di pari passo, perché alla fine noi questi scarti poi, nel nostro caso specifico, vengono caricati e hanno una percentuale di acqua anche molto alta, quindi trasportiamo acqua purtroppo, quindi costi ancora maggiori, e vengono mandati a Brescia, all'inceneritore. E quindi c'è il trasporto, ma soprattutto Brescia si fa pagare per lo smaltimento, quindi che poi loro producano energia elettrica, acqua calda, eccetera, quello è un altro, però ovviamente si fanno pagare. Ci guadagnano, sì, sono una sorta di azienda perfetta. Loro guadagnano dal fornitore e dal compratore, quindi dal cliente. Sarebbe una filiera perfetta praticamente. Anche noi se ci pagassero per prendere il macero, ma non è così. No, è legato alla Camera di Commercio, a un indice ben preciso, e segue l'iter del mercato delle materie prime, come può essere rame, ferro, plastica, vetro. Certo. E costi energetici? Costi energetici noi abbiamo, siamo abbastanza, a parte siamo autosufficienti, perché noi abbiamo una turbogas e abbiamo anche un impianto a biomassa, siamo gli unici in Italia ad avere un impianto a biomassa, quindi noi raccogliamo cippato, lo scarto dei vari boscaioli e aziende di settore che tagliano legna nei boschi, eccetera, e quindi tutto quel cippato viene qui da noi e viene bruciato e noi produciamo con quello circa, abbiamo una turbina che fa circa 1 megawatt. Poi abbiamo una turbogas invece che produce circa 6-7 megawatt, che in parte poi ovviamente gran parte di questa produzione di energia serve alla cartiera, l'altra viene ceduta, viene venduta alla rete. Sì. La carta vi proviene da abbastanza vicino comunque? La cartaccia noi la compriamo da tutta Italia, arriva da Roma, compriamo qualcosa in Svizzera come le dicevo, in Germania, qualcosa dalla Francia, poco, e la maggior parte viene dal nord. Nord però è inteso da Toscana. No, pensavo a un costo di trasporto di questa. E purtroppo incide parecchio, però purtroppo serve. Cioè, le tonnellate sono tante, le cartiere sono tante. Noi, la cartiera dell'Adda del settore è la più grande che c'è in Europa. Come gruppo CDA Servizi siamo i più grandi a livello europeo come indipendenti o non integrati. Nel senso che a molte delle nostre cartiere, anche italiane, dei nostri competitors, hanno anche il tubettificio, cioè si producono il cartone e producono anche il prodotto finito. Noi produciamo solo il cartone, quindi non siamo integrati, non siamo completi. Per scelta? Per scelta. E così, appunto, come non integrati, siamo il più grosso gruppo europeo oggi. Però abbiamo tanti altri concorrenti e che non fanno solo i nostri prodotti, ma che fanno anche altri prodotti e che quindi hanno bisogno di materie prime. Magari non i volumi che ne abbiamo bisogno noi, però comunque tanti, ecco. Quindi c'è anche una bella lotta per prendersi questa carta il più vicino possibile, magari fare meno... Per quanto riguarda il riciclo, sì, più vicino è, meglio è. Noi ad esempio lavoriamo molto con dei consorzi importanti, ad esempio qui all'Eco c'è la Silea, c'è la Secam in Valtellina, e quindi si cerca con loro di fare, loro fanno delle aste e partecipare direttamente a queste aste, anche noi come cartiera, non solo farlo fare alle piattaforme, ma farlo anche noi direttamente, in modo da ridurre il più possibile i costi e cercare di prendere da un bacino il più vicino possibile. Più vicino possibile. Però poi se attratti da cinesi che arrivano a Genova e comprano con dei prezzi molto più alti di quelli che noi riusciamo a pagare, ovviamente loro sono tentati all'export. La concorrenza è principalmente cinese. La concorrenza sul macero o il prezzo spesso è dettato da... Sì. Abbiamo sentito Roberto Severini, responsabile vendite di CDA Servizi. Nella seconda parte del programma, tra pochissimo, proseguiamo con le considerazioni di Comieco sul settore. Vuoi conoscere le dinamiche e tutti gli aspetti professionali del mondo della radio? Autore, redattore, conduttore, produzioni audio e declinazioni web e social. Se una di queste è la tua strada, sintonizzati e frequenta il Master Part-Time in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. Un percorso innovativo per fornire strumenti professionali a chi ha iniziato o vuole iniziare a lavorare nel mondo della radio. A tua disposizione i massimi esperti del settore per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it. L'altro pianeta. Ancora un buon pomeriggio da Laura Bettini. Abbiamo parlato nella prima parte di una cartiera, in particolare della cartiera dell'Adda a Calolzio Corte in provincia di Lecco. Abbiamo sentito come funziona, quali sono i problemi, dove si approvvigiona, quanto consuma. Torniamo adesso a parlare di carta, ma con Comieco questa volta. Comieco è il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli imballaggi a base cellulosica. I consorziati di Comieco sono i produttori, gli importatori, i trasformatori di materiale e di imballaggi cellulosici. Ecco, la relazione e il lavoro che fa Comieco in una situazione come quella della cartiera dell'Adda ce lo ha spiegato nel dettaglio Roberto Di Molfetta, responsabile area riciclo e recupero di Comieco, appunto. Comieco contribuisce all'approvvigionamento delle cartiere italiane, perché Comieco stipula con i comuni italiani, copriamo circa 60 milioni di abitanti, cioè quasi la totalità degli abitanti, stipula dei contratti per avviare a riciclo la carta e il cartone della raccolta differenziata. Nell'ambito di un accordo nazionale che è stato stipulato da ogni 5 anni con AI, il Consorzio Nazionale Imballaggi e l'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia, stipulano, appunto, vengono definite le regole attraverso le quali Comieco, per quanto riguarda gli imballaggi di carta e cartone e la carta, si relaziona con i comuni, stipula di fatto dei contratti che garantiscono al comune una remunerazione per il servizio di raccolta differenziata e garantiscono un punto di consegna della carta e il cartone, dal quale poi la carta e il cartone verrà preparata per essere portata in cartiera. Quindi noi lavoriamo a monte dell'attività delle cartiere proprio per assicurare a tutti i comuni italiani che la loro raccolta differenziata ha sempre e comunque una destinazione in un processo di riciclo e remunerarle appunto per i cosiddetti maggiori oneri della raccolta differenziata. Quindi i comuni e fanno la raccolta differenziata possono fare sostanzialmente un paio di cose. Possono cercare loro degli sbocchi di mercato, quindi dei compratori della loro carta, perché la carta è una materia prima per l'industria cartaria italiana, europea e mondiale, ovvero rivolgersi al sistema consortile che garantisce nel tempo e in modo stabile una remunerazione, perché non è una remunerazione legata al valore di mercato del momento, ma è una remunerazione legata ai costi della raccolta differenziata. Quindi noi abbiamo questi contratti in giro per l'Italia, in alcuni casi ci occupiamo del riciclo dei soli imballaggi, quindi la quota del cartone raccolta presso i negozi piuttosto che gli imballaggi raccolti presso le famiglie separati dalla parte della carta, ma in moltissimi casi e nella maggioranza dei casi invece garantiamo il riciclo anche della componente di carta. Questa è un'attività che è nata negli anni 2000 e ha permesso all'Italia proprio di sviluppare una raccolta differenziata che alla fine, all'inizio nel 2000 era di circa 1 milione di tonnellate, oggi la raccolta differenziata comunale è oltre 3 milioni di tonnellate. Questo proprio perché i comuni hanno avuto in questi anni sempre la garanzia di uno sbocco, di una remunerazione, e questo quindi è stato un fattore importante per gli investimenti poi necessari a cambiare appunto i sistemi di raccolta presso le famiglie. Il sistema consortile gestisce circa 1,5 milioni di tonnellate di carta e cartone ogni anno, su circa 3 milioni che è il quantitativo complessivo della raccolta differenziata comunale in Italia. Oltre poi alle fonti, diciamo, di approvvigionamento per le cartiere dalla raccolta differenziata comunale, ce ne sono delle altre di cui non si occupa il consorzio Comico, che riguardano i maceri derivanti da processi dai processi industriali piuttosto che dai grandi centri di commercio, dalla grande distribuzione, piuttosto che tutto il mondo delle rese di giornale, degli sfridi di lavorazione, della preparazione delle scatole, piuttosto che delle riviste che dei giornali. Questo mondo vale in Italia altri 3 milioni di tonnellate di macero, quindi in Italia complessivamente ogni anno si rendono disponibili per riciclo 6 milioni di tonnellate di carta e cartone, che vanno ad alimentare l'industria cartaria italiana in gran parte, e per una quota da qualche anno vanno a alimentare anche, diventano una fonte di esportazione, quindi diventano del macero che andrà principalmente nel Far East, in particolare in Cina. E quindi l'Italia, che negli anni 2000 era un paese importatore netto di carta e cartone, cioè noi importavamo la carta e cartone dalla Germania, grazie proprio a questo sistema di garanzia del mondo CONAI, attiva appunto tramite Comico per quanto riguarda carta e cartone, e allo sviluppo della raccolta differenziata dei comuni, la maggiore sensibilità, la normativa, perché è del 97 il decreto Ronchi, che pone degli obiettivi specifici ai comuni per quanto riguarda la raccolta differenziata. Grazie a questo processo l'Italia progressivamente è diventata da un paese importatore di carta a un paese esportatore. Questo cosa può significare da un punto di vista industriale? Significa che oggi ci sono le condizioni perché in Italia si possa fare impiantare nuova industria cartaria. E infatti ci aspettiamo, ci sono due gruppi cartari importanti, che nel 2018 attiveranno, al massimo nel 2018, una nuova capacità produttiva. E quindi questo significa nuove scatole fatte in Italia per i prodotti made in Italy che derivano da macero italiano. Una cartiera sarà in Lombardia, che è appunto una cartiera dismessa che viene riattivata fortunatamente, e un'altra invece nel sud Italia, che appunto riuscirà a far fronte all'incremento di raccolta differenziata che noi ci aspettiamo al sud. Perché un'attività che fa il consorzio importante, oltre a quella di garantire ai comuni che già fanno la raccolta uno sbocco, è sviluppare nuova raccolta. E questa attività noi la stiamo facendo in particolare al sud. Certo. Che è più indietro rispetto alle quote. Che è più indietro, noi stimiamo che tra sud e Roma si possano in pochissimo tempo raccogliere più di 1 milione di tonnellate di macero ulteriori, che quindi oggi sono nel flusso dei rifiuti indifferenziati. Per fare questo lavoro abbiamo attivato un piano straordinario di finanziamenti per i comuni del sud. quindi ogni anno facciamo un bando insieme all'ANCI per dotare i comuni che ne fanno richiesta di attrezzature per la raccolta, bidoncini, cassonetti, piccoli bidoni da dare alle singole famiglie. E quest'anno il bando i termini del bando erano il 31 marzo, abbiamo avuto richieste, un bando per €1 milioni, abbiamo richieste molto superiori. E in questo momento l'ANCI e Comieco stanno valutando i vari progetti per poi andare a fare questi finanziamenti. Dall'altra parte abbiamo un canale di anticipazione finanziaria a grandi comuni del sud e a grandi bacini del sud, il caso più importante ha riguardato finora Napoli, dove Comieco anticipa le risorse per comprare attrezzature di raccolta ma anche automezzi. Poi definiamo con i comuni un obiettivo, di raccolta a 12-15 mesi, 15-18 mesi. Se l'obiettivo viene raggiunto, il 50% dell'anticipazione finanziaria viene se la colla Comieco, e questo quindi dà un forte aiuto ai comuni per fare degli investimenti. Oltre poi abbiamo l'altra parte dell'anticipazione finanziaria che non viene coperta da Comieco, verrà restituita a Comieco attraverso carta e cartone. L'ultima curiosità che credo possa far piacere anche agli ascoltatori sapere è quella che lei riferiva prima della velocità di tutto ciò che sta attorno al mondo della carta. Noi la raccogliamo molto rapidamente, no? Arriva là dove poi viene lavorata. Riassumiamo un po' questo movimento. Sì, il riciclo della carta è un processo veloce, nel senso che tutto parte dalla scelta che fa il consumatore, sia una famiglia piuttosto che un commerciante, di buttare la carta e il cartone nel cassonetto, nel bidoncino giusto. Normalmente su base settimanale in Italia c'è l'azienda di raccolta che svuoterà quel bidoncino. Quel bidoncino dove finisce? Quel bidoncino finisce in una delle 300 piattaforme che sono disseminate su tutto il territorio italiano e che normalmente entro 20 km dal punto di raccolta consentono al camion della raccolta differenziata di svuotare il suo contenuto in una piattaforma dove viene fatta una prima lavorazione, un primo trattamento finalizzato al recupero. Sostanzialmente vengono tolti gli elementi inquinanti, che sono le cosiddette frazioni estranee. Dopodiché questa carta, quindi dicevo, arriva in piattaforma. In piattaforma viene lavorata e nel giro di una settimana è pronta in balle, che pesano più di una tonnellata, che vengono caricate su un mezzo e arrivano alla cartiera. Nella cartiera in una settimana al massimo si costituiscono delle stive, quindi viene fatto un magazzino, e la cartiera poi dal magazzino dei vari tipi di macero andrà a prelevare le diversi tipi di carte per in funzione della ricetta di produzione del momento. Dunque, normalmente in una settimana dall'arrivo in cartiera la carta entra nella macchina continua e da lì diventerà una bobina di carta. È davvero tutto per questa puntata, ringraziamo anche Roberto Di Molfetta, responsabile area riciclo e recupero di Comieco. Grazie a tutti coloro che hanno permesso a me la visita alla cartiera, ci risentiamo la prossima settimana alla stessa ora. Da Laura Bettini, un buon ascolto.